Gorgo l'orco e il gigante. Nel villaggio di Gorgo erano quasi tutti ammalati di morbo dragonite rossa. Gorgo non era stato contagiato perché lui era un orco dorato, ma suo padre era tutto coperto di macchie blu e arancioni. Era inverno, nevicava e il fuoco scoppiettava nei camini. Presto ci sarebbe stata una festa degli orchi rossi, un pranzo colossale che andava avanti per 2 giorni, alla fine del quale tutti si tuffavano in un enorme budino di gelatina rossa. Ma con tutti quei malati non ci sarebbe stata nessuna festa. Anche Borgo, il medico del villaggio, era malato. Ci vogliono 3 squame di drago rosso, 2 denti di gigante e 5 piume dell'uccello a 3 teste, brontolava. Non c'è altra medicina, e senza medicina niente festa. Volerò con Zago in cerca della tua medicina, si offrì Gorgo. Porta con te il baby Slurm, disse Borgo. E prima di tutto vai dal gigante. Perché? Chiese Gorgo. Ma Borgo si limitò ad emettere un brontolio. Quello stesso giorno, sul tardi, Zago, il baby Slurm e Gorgo volavano sopra i picchi purpurei dove vivono i giganti. Nuvole di fumo rosse e verdi si alzavano da buchi nelle rocce. Quel fumo, ragazzo mio, proviene dai giganti, spiegò Zago. Riducono le rocce in polvere e poi le soffiano fuori dai buchi. Zago atterrò sulla sporgenza di una roccia ghiacciata. Gorgo e lo Slurm scesero dalla sua groppa. Ora ascoltate, sussurrò Zago. I giganti si fanno strada perforando le rocce velocemente, ma voi potrete udirli arrivare. Proprio in quell'attimo, Gorgo udì un suono lontano che si fece sempre più forte. Sembrava che potenti mascelle stessero masticando. La roccia si aprì in due, una bocca enorme dagli smisurati e sudici denti e con una piccola lingua pelosa inghiottì il baby Slurm e disparve nuovamente. Non preoccuparti, Gorgo, lo salveremo, disse Zago. Gorgo gli saltò in groppa ed entrambi volarono dentro il tunnel che il gigante aveva scavato. Ma il gigante correva più veloce di loro e dopo poco lo persero di vista nel buio. Gorgo pensava al piccolo Slurm. Ricordava il suo verso così chiaramente che gli pareva di udirlo. Ma, ehi, lo stavo udendo davvero. Zago e Gorgo corsero in direzione dello squittio e, girato un angolo, si trovarono faccia a faccia con il gigante. Teneva gli occhi chiusi e la sua boccaccia enorme era semiaperta. Non è stato di certo il gigante a squittire, disse Zago scrutando attraverso i suoi occhiali. Come un lampo, un tentacolo bianco uscì dalla bocca del gigante e gli tolse gli occhiali. Zago rise. Sciocchino di uno Slurm, disse. Ed ecco il baby Slurm fare capolino dalla bocca del gigante. Teneva stretti fra i tentacoli 3 scaglie di drago rosso, 2 denti di gigante e 5 piume di uccello a 3 teste. I giganti mangiano di tutto, commentò Zago. All'improvviso si udì un tremendo ruggito. Il gigante si era svegliato. Presto! Gridò Gorgo. Su per quel tunnel, Zago! E volarono via come il vento, con il gigante alle calcagna che arrancava sulle sue zampette corte e viscide. Mentre Zago si alzava in cielo, le mascelle del gigante scattarono proprio a 1 millimetro dalla sua coda. Mamma mia, l'abbiamo scampata bella! Gridò Gorgo. Di ritorno al villaggio, Borgo spiegò che erano stati i pungiglioni dello Slurm ad addormentare il gigante. Voi non lo sapevate, è vero? Rise mentre si dava un gran da fare a mescolare in un calderone una miscela di medicina ribollente e densa, sufficiente a curare l'intero villaggio. E così gli orchi rossi poterono fare la loro festa. E quando arrivò il momento del gran salto nella tinotta di gelatina, il baby Slurm saltò per primo. Thank you.